결에 내게 너로 말미엔데 달에 갈라래 Dico no che c'è un chiodo dentro il mio cuore e che per questo non può palpitare. La mia ragazza sa che non è vero. La mia ragazza sa che quando mi innamoro io do tutto il bene a chi è innamorata di me e non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Quando mi innamoro io do tutto il bene a chi è innamorata di me. All'amore a chi mi dice vivi un altro giorno io gli rispondo che quando mi innamoro io do tutto il bene a chi è innamorata di me e non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può